Sono fuori dalla tua vita e ancora non ti sei pentita. Tu per me non provi amore da quando c'è lui nel tuo cuore. Ci hai lasciato spiazzati dal calore di un camino acceso 24 ore. Sono fuori dalla tua vita e ancora non ti sei pentita. Tu per me non provi amore da quando c'è lui nel tuo cuore. Ci hai lasciato spiazzati dal calore di un camino acceso 24 ore. Eri felice senza di lui, è entrato nella tua vita e ti ha reso i giorni bui. Avevi un sacco di persone attorno, adesso si allontanano da te giorno per giorno. Da quando c'è lui nella tua vita, mio zio per colpa sua ha quasi perso la vita. Tante persone te lo stanno dicendo di lasciarlo. Hai bagnato il suo corpo di brezza marina e lui ti ha ricambiato con del fumo pensando che sei cretina. Provo passione per te, lascialo e mettiamoci insieme. Io ti voglio bene, non come sua sorella che ti ha regalato il benzo ad Irene. Lo hai fatto assaggiare a chi ti stima e ora hanno perso un rene. Da quando ti ha regalato il suo profumo, la tua essenza e il tuo odore non mi fanno più battere il cuore. Sono fuori dalla tua vita, ancora non ti sei pentita. Tu per me non provi amore da quando c'è lui nel tuo cuore. Ci hai lasciato spiazzati dal calore di un camino acceso 24 ore. Sono fuori dalla tua vita, ancora non ti sei pentita. Tu per me non provi amore da quando c'è lui nel tuo cuore. Ci hai lasciato spiazzati dal calore di un camino acceso 24 ore. La sua altezza mi fa impressione e se lo ami per questo io cado in depressione. Io c'hai quando in vengo rap. Da te provo una forte emozione, non te la riesco a descrivere in questa canzone. Quando passo col mio corpo sopra il tuo, sento il cuore battere, ma vedendoti vicino a lui vorrei mandarti a farti fottere. Lo so, lui ti tratta male, ti minaccia e manda i tuoi amici all'ospedale. E l'amica di una mia amica è ricoverata per un brutto male. Brutta stronza, ha imparato a fumare. Smettila perché così rischi di morire. E non solo questo, ci fai pure soffrire. In paese si dice che il tuo compagno sia un malfattore. Già. E tu ci stai appiccicata giorno per giorno a fare l'amore. In paese si dice anche che fa le cose sporche, come gli appalti crollati nelle Marche. Sono fuori dalla tua vita, ancora non ti sei pentita. Tu per me non provi amore da quando c'è lui nel tuo cuore. Ci hai lasciato spiazzati dal calore di un camino acceso 24 ore. Sono fuori dalla tua vita, ancora non ti sei pentita. Tu per me non provi amore da quando c'è lui nel tuo cuore. Ci hai lasciato spiazzati dal calore di un camino acceso 24 ore. Sono fuori dalla tua vita e ancora non ti sei pentita. Tu per me non provi amore da quando c'è lui nel tuo cuore. Ci hai lasciato spiazzati dal calore di un camino acceso 24 ore. Sono fuori dalla tua vita, ancora non ti sei pentita. Tu per me non provi amore da quando c'è lui nel tuo cuore. Ci hai lasciato spiazzati dal calore di un camino acceso 24 ore. Scusa, giovanotto, che c'è scritto qua? Benzene. 15.989,4 sono le emissioni totali. Il valore soglia è di 1.000. Diossine. Le emissioni totali sono del 97%, mentre il valore soglia è 0,1%. Minchia.